questo lunedì 13 febbraio è presumibile, con quello che sta succedendo ad Atene, le prime pagine dei giornali sono tutte concentrate appunto su questo, su quello che succede in Grecia. Intanto uno sguardo anche all'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, la grande mappa della crisi, questo è il titolo d'apertura, impatto pesante in Calabria e Molise, da Liguria e Trentino la miglior difesa. C'è una mappa che poi vedremo appunto della crisi in Italia. La Grecia in fiamme, vedrete tante immagini anche molto dure di fiamme, bombe Molotov lanciate ieri davanti alla piazza del Parlamento greco che varava il piano di austerity, assedio al Parlamento greco, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera, mentre Repubblica sia l'austerity, Atene brucia, La Stampa, Atene, banche in fiamme. Il Messaggero, Grecia rivolta contro i tagli, l'Unità, la Grecia assediata. Mentre il Secolo XIX, Atene brucia, il Parlamento vara la stangata. E il Giorno, l'edizione del Nord del Quotidiano Nazionale, Atene brucia. Qui c'è la foto più emblematica, tutta pagina, di un poliziotto che esce a fatica dalle fiamme per delle bombe Molotov lanciate probabilmente da uno dei Black Bloc ieri in azione. Il Giornale, invece, voglio tenere per ultimo la prima pagina del Giornale perché voglio partire da qui. Il titolo è "I finti tagli di Re Giorgio, ma che austerità". Ebbene sì, perché sui giornali c'è tutti i giornali si concentrano su un'austerità nostrana, vale a dire in tempi di tagli ai costi della politica, in tempi di austerity e non solo in Grecia ma anche in Italia. Il Quirinale, ieri, con una nota firmata dal suo segretario generale Donato Marra, ha voluto far sapere quelli che sono i costi della struttura. E qui basta vedere i giornali per vedere come la stessa notizia può essere riportata in modo ben diverso. Per esempio, sul Corriere della Sera, pagina 11, stipendi e turnover, i tagli del Quirinale, risparmiati 60 milioni di euro, quasi 400 dipendenti in meno del 2006. In realtà questi risparmi non sono risparmi veri e propri, ma il Quirinale ha fatto sapere che il fondo di dotazione a carico del bilancio dello Stato per mantenere la struttura appunto della Presidenza della Repubblica ammonta a 228 milioni di euro l'anno. È la stessa cifra prevista più o meno nel 2008, a fronte però, e qui ci sarebbero i risparmi, a fronte di un'inflazione che invece è aumentata dell'8,4% in questi anni, dal 2008 al 2012, nonostante questa inflazione dell'8,4%, il Quirinale costa lo stesso del 2008. Da qui l'idea di risparmi per 60 milioni. Il personale ridotto di 394 unità rispetto al 2006, il fondo di dotazione bloccato alla stessa quota del 2008, eccolo qui, considerando l'inflazione. Il Quirinale rivendica così le economie realizzate negli ultimi anni, fornisce alcune cifre. E questa è come il Corriere della Sera propone, ma così anche Repubblica. Il Quirinale taglia le pensioni, ridotto il personale, così Napolitano ferma le spese al 2008. Il Quirinale fa sapere, Repubblica presenta i conti, annuncia una sforbiciata, meno dipendenti, le pensioni calcolate col sistema contributivo, gli stipendi congelati. Cresce solo una voce, ma è quella occasionale per il budget per celebrare i 150 anni. Il risultato, secondo il bilancio di previsione per il 2012, le spese per far funzionare il Colle restano inchiodate al livello del 2008. Il Giornale, per l'appunto, la mette in un modo ben diverso. L'apertura del Giornale è "I finti tagli di Re Giorgio", e poi l'articolo all'interno a pagina 3, "Re Giorgio si vanta dei tagli alle spese, ma la sua reggia è la più cara al mondo". Ebbene sì, perché è vero, nonostante l'inflazione tutti i costi sono bloccati al 2008, ma con 228 milioni a bilancio il Quirinale, fa sapere il Giornale, costa ancora il doppio dell'Eliseo in Francia e molto più anche di Buckingham Palace in Gran Bretagna. E dunque, insomma, questo 228 milioni di euro rimane una spesa per il Quirinale, una spesa davvero secondo il giornale, spropositata. A proposito di Eliseo, visto che abbiamo citato la Francia, cosa sta succedendo in Francia invece? C'è un'iniziativa che sta facendo discutere, ne parla Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, ma anche il Secolo XIX fa mezza pagina su questo. C'è il comune di Nogent-sur-Marne, una cittadina di 30.000 abitanti appena fuori Parigi, che ha deciso di fare una statua che rappresenta, vuole rappresentare un operaio, in questo caso un'operaia, alta 2 metri, da far pagare per metà la comunità, e il costo è di circa 96.000 euro per farla, per realizzarla. Solo che per prendere, diciamo, è stata presa come spunto, come modella, per ritrarre e per raffigurare l'idea dell'operaia, Carla Bruni, e come, la Premier Dame. Una che, come ha detto sdegnato il socialista locale William Gabe, una che avrà visto pure delle piume in vita sua, ma sugli struzzi e nelle sfilate non certo in fabbrica. Insomma, Carla operaia, anzi Carla, perché ormai bisogna chiamarla Carla, Carla operaia italiana, la statua che divide i francesi. L'idea del sindaco di un paese vicino a Parigi è quello, per ricordare le lavoratrici straniere, verrà fatta una statua che ritrae in qualche modo le forme di Carla Bruni, operaia straniera. C'è qualcosa che stona in questa frase. Carla Bruni, operaia straniera in Francia. 24 mattino. Eccoci qua, allora alle 7.36 minuti, tutti i quotidiani aprono su quello che sta succedendo ad Atene, dove il Parlamento ha votato il piano d'austerity ieri notte, ieri in tardissima serata, in cambio degli aiuti promessi dall'Europa per cercare di evitare il baratro. Vedrete soprattutto tante foto sui giornali, alcune inquietanti, beh, intanto le fiamme, c'è una foto sul Corriere, pagina 2, di un black bloc, così vengono dominati, che impugna addirittura una pistola, una piccola pistola, non mi sembra, io non me ne intendo di armi, ma non mi sembra una pistola forse vera, forse una piccola pistola, la punta verso la polizia. È successo e si è visto anche questo nelle immagini degli scontri ieri. C'erano anche tantissime persone che rappresentavano la Grecia in maniera trasversale in piazza per protestare, per cercare di impedire al Parlamento di firmare questo piano che prevede tagli, ancora lacrime e sangue, come si suol dire, in cambio degli aiuti. Molotov, bombe carta, slogan contro l'euro in piazza Sintagma, va in scena la rivolta. Questo è il titolo dell'articolo di cronaca di Danilo Taino da Atene, a pagina 3 del Corriere della Sera. Palazzi in fiamme, decine di feriti nella più grande manifestazione dall'inizio della crisi. E così anche Repubblica, pagina 2 e 3, racconta da piazza Sintagma con Daniele Mastrogiacomo quello che sono gli scontri, quello che è successo fuori dal palazzo, mentre dentro il palazzo appunto si firmava il piano di austerity. I due articoli che voglio segnalare sono Eugenio Corsio a pagina 4 di Repubblica. Lo scenario è quello delle interviste ad alcuni economisti che sono e rimangono scettici comunque sulla cura per quel che riguarda la Grecia. E vi segnalo anche Giuseppe Sarcina, pagina 5 del Corriere della Sera, l'approfondimento, la lunga deriva dell'economia greca dal boom al crollo del PIL del 12%. 5 manovre in neanche 2 anni, così scrive Sarcina, circa 40 miliardi di euro tra tagli furibondi alla spesa pubblica e nuove imposte. Nell'altra colonna più o meno 250-265 miliardi di aiuti promessi da Unione Europea e Fondo Monetario Internazionale. Ma la Grecia continua a rotolare fuori controllo su una scarpata dolorosa tra scontri di piazza e drastico impoverimento sociale, giù verso il bivio drammatico del 20 marzo, quando o il governo rifinanzia titoli di Stato in scadenza per 14,4 miliardi di euro, o il progetto di una Grecia moderna ed europea cade nel vuoto del default. E dunque segniamoci questa scadenza, 14 marzo, dunque la Grecia non è che con il piano d'austerity ieri varato è uscita da dal rischio del default. L'agenzia di rating Fitch dà per certo il fallimento più o meno pilotato della Grecia, scrive ancora Sarcina. La massa dell'indebitamento ha cancellato ogni logica nella dinamica dei conti pubblici, ora sta sommergendo l'economia reale, cioè il lavoro, i risparmi, le retribuzioni di 5 milioni di greci attivi. Nel 2010 l'allora prima ministro, il socialista Papandreou, dichiarò il dissesto del bilancio. Investitori di lungo periodo e rapaci speculatori sul breve cominciarono subito a studiare la stratificazione del debito pubblico, che aveva raggiunto un livello grottesco, il 144% sul prodotto interno lordo. E nel maggio 2010 l'Unione Europea assegnò ad Atene un primo kit di pronto soccorso, 110 miliardi da spalmare su 3 anni. E qui è che è iniziata questa storia, che non è ancora finita e rischia di finire davvero male. Tra l'altro, Giuliano Ferrara, il direttore del Foglio, che sarà nostro ospite alle 8:30 per parlare di Monti, di Europa e ovviamente anche di Grecia, oggi firma l'editoriale, il suo commento del lunedì, proprio dicendo: attenzione, Atene sarà un'eccezione, ma noi dobbiamo stare attenti. Scrive Ferrara: l'Italia oggi spera di assomigliare in tutto alla sua nuova foto, la copertina di Time dedicata a Monti, l'uomo che forse può salvare l'Europa. È un wishful thinking, è una speranza scambiata per realtà? A giudicare dall'aria che tira, la recessione italiana non sarà indolore. È vero che siamo patrimonializzati, che le famiglie sono tra mille virgolette ricche, che il posto occupato dall'Italia è più felicemente ingombrante anche sulla scala della finanza internazionale. Ma non è anche vero che si può e si deve razionalmente dubitare della capacità di avviare da noi e in questo contesto europeo una politica anticiclica efficace contro la recessione. La Grecia sarà anche una drammatica eccezione, perché le condizioni in cui la crisi è stata fatta marcire riguardano certo le responsabilità della nazione ferita, ma avere un piede incastrato in una chiara dinamica recessiva è rischio immenso anche per un paese più forte e meno esposto come l'Italia. Con Monti, per Monti e solo con Monti, tutti appassionatamente la nuova ondata di benevolenza verso il potere. Ma se fosse tutta una generosa e volontaristica illusione, se ci volesse ben altro in termini di libertà economica delle imprese per la crescita e di riduzione del peso fiscale sul lavoro e la produzione per riprendersi, la domanda è lecita, anzi obbligata. Insomma, Giuliano Ferrara dice: non è che la Grecia è poi così lontana da noi e non solo geograficamente. Vabbè, questa è la situazione per quello che sta succedendo ad Atene, dove ovviamente anche oggi si vedrà come reagirà poi la piazza al piano di austerity che alla fine è stato firmato dal Parlamento europeo, dal Parlamento greco. Mentre in Italia tengono ancora banco, almeno stando ai giornali, la discussione sulla riforma del lavoro e sull'articolo 18, che è una delle parti della riforma del lavoro. Ieri Repubblica ha diffuso la notizia di un presunto accordo, incontro segreto tra Mario Monti e il leader della CGIL Susanna Camusso prima che Monti volasse negli Stati Uniti, un incontro che sia il Premier Monti, sia Palazzo Chigi, sia Susanna Camusso hanno smentito. Oggi Repubblica dice: confermiamo, secondo noi, secondo le fonti autorevoli, questo incontro c'è stato, accordo per cambiare l'articolo 18, polemiche sul vertice segreto, così su Repubblica, che comunque scrive con Claudio Tito: l'idea è quella di Monti di cercare di firmare questo accordo sulla riforma del mercato del lavoro entro marzo, in modo da chiudere prima della tornata elettorale delle amministrative prossime a maggio e dunque cercare di serrare i tempi. Questo per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro. Mentre la politica, la notizia politica più interessante del giorno, come raccontano tutti i giornali, viene certamente da Genova, dove ci sono state le primarie nel Partito Democratico per la scelta del candidato sindaco alle prossime amministrative. Ebbene, il Partito Democratico si divideva in pratica tra due candidati, l'attuale sindaco Marta Vincenzi e Roberta Pinotti. Risultato: ha vinto un terzo candidato. È il terzo candidato, quello appoggiato da Vendola, tanto per capire, si tratta di Marco Doria, docente universitario, era appoggiato da Vendola e anche da Don Gallo. E molti giornali raccontano come prima analisi il fallimento del Partito Democratico come partito centrale, primaria a Genova, suicidio del PD, scrive per esempio e titola pagina 12 il Corriere della Sera, ma anche il Secolo XIX, il giornale ovviamente più diffuso a Genova e che quindi ha seguito con maggiore attenzione queste primarie, il trionfo di Doria e il suicidio del Partito Democratico, sostenuto da Sella, cioè la compagine di Vendola, vola al 46% alle primarie, tonfo di Vincenzi e Pinotti, vale a dire i due candidati del PD. Marco Doria, 54 anni, professore associato di storia economica all'Università di Genova, ora dice il paese che cambia, il centro-sinistra lo deve capire. Qualche frase al Corriere della Sera, poi viene intervistato anche Nichi Vendola dal Secolo XIX che dice non ha vinto un partito ma una domanda di rinnovamento, Doria è il risultato di sobrietà, rigore intellettuale, capacità di ascolto, civiltà del dialogo, investigazione sociale, si può rimanere sorpresi se le persone decidono di farsi amministrare da chi è portatore di queste caratteristiche. Poi un Vendola che dice non ho alcuna intenzione di polemizzare con il Partito Democratico, mentre lo stesso candidato Marco Doria, intervistato da Repubblica, pagina 13, dice è un segnale preciso che mandiamo a Roma. C'è una terza strada tra l'antipolitica di Beppe Grillo e la voglia di lasciar perdere che emerge in settori della sinistra e la voglia di cambiare da dentro. Lo avevamo già visto con Milano, con Cagliari, con Napoli. Il popolo di sinistra ha voglia di cambiare, non perde nessuna occasione. Da Genova arriva l'ennesima risposta. Dunque una grana politica certamente per il Partito Democratico, un segnale abbastanza eloquente la vittoria di questo terzo candidato alle primarie di Genova. Ora sentiamo le informazioni sul traffico. Allora, che sta succedendo in Vaticano? I veleni vaticani, i corvi intesi come autori di lettere, di documenti che poi vengono pubblicati dai giornali. Beh, l'ultimo, il più clamoroso, quello pubblicato dal Fatto Quotidiano qualche giorno fa, la vicenda in cui si adombrava addirittura l'ipotesi di un complotto per uccidere il Papa entro un anno, con tanto di studi e complotti per le successioni al soglio pontificio. Insomma, è una vicenda che ancora oggi viene analizzata dai giornali. È vero che il Vaticano ha definito farneticazioni quelle di un possibile complotto, resta il fatto che questo documento c'era, è stato consegnato al Papa ed è stato consegnato anche ai giornali, nello specifico al Fatto Quotidiano, e dunque tutto questo fa capire che c'è quantomeno uno scontro all'interno della Curia Romana. Oggi c'è il Corriere della Sera che fa un'intervista al Cardinal Casper, c'è uno stile cattivo nella curia, il Cardinal Casper che dice io non ho mai saputo molto sugli interni del Vaticano, sono uno straniero in curia, ho cercato di fare il mio lavoro, ma certo, dice il Cardinal Casper in questa intervista a Gian Guido Vecchi, è un problema di mancanza di ecclesialità, chi si presta a queste cose manca di senso della Chiesa, di lealtà nei confronti della Chiesa, del Vaticano stesso, queste cose non si fanno. Come cristiano, come persona, penso che uno possa chiedere giustizia se ritiene di aver subito un torto, ma non così, c'è uno stile cattivo. Insomma, il Cardinal Casper in qualche modo richiama ha una maggiore ecclesialità, per l'appunto, no? A dire c'è uno stile cattivo di chi pensa in qualche modo di vendicarsi per presunti torti subiti. Anche La Stampa fa una pagina su questo con il vaticanista Giacomo Galeazzi a pagina 9, corvo d'Oltretevere, le piste passano per la Cina. Perché non sarebbe solo l'arcivescovo di Palermo Paolo Romeo ad aver viaggiato privatamente in Cina. Lo stesso Blitz, viene definito così, Blitz, in Cina lo ha compiuto un anno fa proprio il cardinal colombiano Hoyos, autore del memorandum sulle confidenze di Romeo circa un attentato entro 12 mesi al Papa. Dietro la guerra di carta nel Sacro Collegio c'è anche la corsa tra personalismi, sgambetti, scivoloni ad accreditarsi in Vaticano come mediatore informale con la Cina e come precursore artefice delle relazioni ufficiali. Insomma, vedete qui personalismi, sgambetti, scivoloni, cadute di stile. Sta di fatto che in Vaticano c'è moltissima, moltissima tensione. Oggi è una giornata importante per un processo che dopo tantissimi anni va a sentenza, vale a dire quello che la stampa vi dedica due pagine, pagina 20 e 21, definisce strage Eternit. Oggi alla Procura di Torino vengono giudicati Stéphane Schmidheiny e Jean-Louis Descartier, vale a dire i titolari delle aziende Eternit in Italia, quelle legate all'amianto, che secondo l'accusa hanno fatto centinaia e centinaia di morti e purtroppo ne faranno anche per le malattie, la malattia dell'asbestosi che poi si evidenzia negli anni e non siamo ancora arrivati, pare, al picco di tutti coloro che sono entrati in contatto con l'amianto dell'Eternit. Ebbene, oggi ci sarà la sentenza, strage Eternit, oggi è il giorno della verità, due pagine sulla stampa con anche un'intervista a una delle responsabili, una delle rappresentanti delle vittime, vale a dire Romana Blasotti, che ha perso tantissimi familiari per questa malattia e dice: ho paura, ma forse dopo la sentenza tornerò a piangere. Parla la rappresentante dei familiari delle vittime. C'è grandissima attesa, con anche pullman attesi alla Procura di Torino per questa sentenza che verrà letta questa mattina. Due notizie, qualche notizia per concludere di taglio minore. Beh, il Sole 24 Ore ci fa sapere che è più facile, sarà più facile cambiare il cognome. Il cambio del cognome più veloce, perché penserà a tutto il prefetto Antonello Cherchi. A pagina 15 c'è una novità importante per anche così sburocratizzare da questo punto di vista per chi vuol cambiare il cognome. Magari c'è qualcuno che il cui cognome proprio non piace molto, c'è qualcuno che vuole mettere il cognome di entrambi i genitori, sono sempre più le persone, c'è qualcuno che vuole cambiarli perché magari è un nome d'arte, quindi vuole mettere un nome d'arte. Prima la procedura era molto complicata, mentre a pagina 15 e Sole 24 Ore tutti i dettagli di come viene modificata questa situazione. E che dire, siamo in chiusura. Trovate anche molto, non l'ho detto, di Whitney Houston. Ci sono tantissime pagine, ovviamente, sulla scomparsa, spesso si dice in questi casi prematura, e su anche molte analisi di come il talento, sempre più nella musica, in molti casi, l'ultimo anche ricordato in ordine di tempo, Amy Winehouse, non riesce, non è abbastanza per salvare. E poi c'è il calcio, che dire, vabbè, titolo, leggo solo il titolo della Gazzetta dello Sport, incubo Inter, anche perché ieri sono giocate solo poche partite, adesso vabbè sì è vero il Milan è primo, ma adesso la Juve farà due recuperi e quindi insomma ammazzerà il campionato con le prossime due recuperi che deve fare.